34. Zuppa di zucca gialla. Zucca gialla, sbucciata e tagliata a fette sottili, 1 chilogrammo. Mettetela a cuocere con 2 ramaiuoli di brodo e poi passatela dall'ostaccio. Fate al fuoco un intriso con 60 grammi di burro e 2 cucchiaiate rase di farina. E quando avrà preso il color biondo, fermatelo col brodo. Aggiungete la zucca passata e il resto del brodo che basti per 6 persone. Poi versatelo bollente sopra a dadine di pane fritto e mandate la zuppa in tavola con parmigiano grattato a parte. Se farete questa zuppa a dovere e con brodo buono, potrà comparire su qualunque tavola ed avrà anche il merito di essere rinfrescante.